connessione al cuore dei fumetti e già tutto tra noi. Sigla. Step to Paradise. New World. Album. Fortress in the Sky. Dal sito www.jamento.com. Addio Polaroid. Ci spiace cominciare con quella che sembra una notizia triste, e anzi lo è a tutti gli effetti. Ma lo spunto è troppo interessante per trascurarlo. Oggi, 10 febbraio 2008, la Polaroid va in pensione, esce dal mercato, scompare. Se non per sopravvivere come oggetto da collezionismo, certo illustre, certo appetibile, ormai però solo desiderio di una schiera precisa di fotomatori. La notizia ha fatto il giro della rete e della carta stampata. La Polaroid, come casa, era già entrata da tempo in crisi a causa della concorrenza delle fotocamere digitali e dei telefonini con fotocamera integrata. Prima, quindi, ha sospeso la produzione degli apparecchi e oggi, da Boston, sede della casa, hanno annunciato che sospenderanno, anzi termineranno, la produzione delle ricariche, garantendo solo la copertura per il 2008. Poi, chiunque vorrà scattare una Polaroid istantanea non potrà che rivolgersi al mercatino dell'usato e del collezionismo. Del resto, la fama dell'apparecchio, prodotto dall'omonima ditta, è stata ampiamente meritata. È stata un po' l'antesignana della filosofia del web 2.0, dello sharing, di tutto quello che oggi è plug and play. Proprio per questo suona stranamente ironico che sia stata proprio la cultura del digitale a seppellire questa veneranda icona del nostro tempo. La Polaroid è stata la democratizzazione della fotografia. Era davvero la foto e lo sviluppo a portata di tutti, e non solo degli studi fotografici o degli amanti della stampa in bianco e nero. Quest'ultimi, infatti, avevano già sacrificato ore e ore, ma non solo, anche la serenità coniugale, e chiusi nei propri garage, nei loro sgabuzzini trasformati in camera oscura. Prima della Polaroid, i fotomatori erano quindi una piccola elite di privilegiati, i quali creavano e stampavano da soli le proprie immagini, le proprie visioni. Noi tutti, la massa, il pubblico, ci limitavamo a scattare e poi andavamo tutti dal fotografo per mettere su carta i nostri ricordi. La Polaroid, invece, ha permesso a tutti noi la soddisfazione della foto cotta e mangiata. La celebre fotocamera istantanea, di cui i meno giovani hanno certamente un ricordo, ci ha regalato l'emozione di contemplare l'immagine del suo farsi, di vedere apparire sulla carta persone, volti e ricordi, grazie ai reagenti chimici, ormai percepiti come ultra inquinanti. We'll be right back. Tornando a noi, certo perfetto vedere che ancora sul sito Polaroid Italia si promuove l'acquisto della Polaroid One 600 rossa, con le ricariche istantanee. Quindi ci si chiede in fondo che senso abbia questa promozione, se fra un anno ci sarà la produzione delle ricariche stesse. E ci si chiede anche chi avrà mai voglia di comprare l'ultima di queste macchine, forse per il desiderio non del tutto illegittimo bizzarro di essere l'ultimo fotografo a scattare l'ultima Polaroid al mondo, magari fra 25 anni, giusto per essere sicuro che gli altri abbiano rinunciato a scattare. Un singolare primato questo, che inevitabilmente toccherà a qualcuno, il quale potrebbe però esserne persino inconsapevole. Del resto, è molto più facile giocare ancora il ruolo dei pionieri, quando si sperimenta un'invenzione nuova in laboratorio, piuttosto che essere consapevoli di essere gli ultimi a utilizzare un prodotto o una tecnologia. I libri di storia in effetti celebrano le invenzioni, ne ricordano la nascita. Ricordiamo la data del primo telefono, la prima trasmissione radio, l'ora in cui si è accesa la prima lampadina a incandescenza. Assai più difficile è ricordare il canto del cigno, sapere esattamente quando un prodotto o una tecnologia cessi di essere disponibile o di funzionare. Forse qualche maniaco della ricerca d'archivio potrebbe soddisfare tale e tanta curiosità. Potrebbe andare a spulciare il necrologio di un prodotto o di un'invenzione. Una tecnologia muore quando muore l'ultimo manufatto in grado di farla funzionare. Però sarebbe un lavoro ingrato, probabilmente inutile. In fin dei conti, chi desidera mai, in un mondo di desideri insoddisfatti e consumi compulsivi, fermarsi all'esempio di un prodotto, celebrarne il viatico? La morte, non solo quella biologica, ci turba, ci urta. Al massimo sono concesse colorate operazioni di nostalgia, di revival, collezionismo. Al di là di tutto, alla fine di tutto, anche questo è un po' come inchiodare dei cadaveri, degli oggetti, in un casellario immaginario, metterli nei loro imballaggi originali, svolgere la necessaria manutenzione per conservarli, consapevoli che ogni ulteriore utilizzo potrebbe danneggiare irreparabilmente i nostri tesori. Certo, abbiamo anche la testimonianza d'amore di chi non si rassegna, e cerca artigiani nascosti, o si fa lui stesso artigiano, rispolverando e riscoprendo tradizioni di bottega, e continuare a far vivere una passione e un utensile, una fotocamera che sta diventando d'epoca. Chi lotta tenacemente per ritardare il più possibile il giorno in cui si guasterà un componente irreparabile, il giorno in cui, anche la Polaroid meglio conservata, si fermerà per sempre. Proprio per questa ragione non ci rassegniamo tanto facilmente alle parole di Oliviero Toscani, che dal Corriere di oggi invita a non farne un dramma, paragonando la Polaroid ai cavalli degli omnibus e delle carrozze, reliqui venerando di cartoline belle poche. E non lo facciamo certo perché ci sembra migliore il mondo andato. Siamo consapevoli del fatto che molto del fascino dei ricordi risiede nella meraviglia dell'infanzia e della prima gioventù. Però ci dispiace anche molto scoprire che nessuna organizzazione, magari pubblica, magari culturale, magari non a scopo di lucro, oppure qualche archivio storico, abbia deciso di mantenere in vita questo modo di fare fotografia, senza nulla togliere alla versatilità e alla comodità del digitale. Non vogliamo certo farne una polemica tra analogico e digitale, un po' perché non ci piace confinare nel tecnicismo il valore creativo ed espressivo di un gesto come la fotografia, un po' perché riconosciamo che anche il telefonino rappresenta la democratizzazione di fare foto. Per quanto non possa rivaleggiare ancora in termini di qualità con un apparecchio fotografico essenziale, possiamo felicemente godere della disponibilità offerta dai nuovi apparecchi. Essi sono delle vere e maneggevoli estensioni, delle autentiche protesi dei nostri sensi, che estendono la sfera del percettibile al mondo intero, che ci rendono produttori e fruitori istantanei di emozioni e ricordi. In questo, molto della Polaroid sopravvive e sopravvivrà fra le vite dei teenager affezionati ai propri cellulari con Bluetooth o Wi-Fi integrato, i quali consentono l'immediata creazione e diffusione dell'immagine urbi e torni, con tutte le conseguenze del caso, belle e brutte, dal crimine reso immediatamente fruibile e visibile, o dall'abuso di pubblici ufficiali pubblicamente smascherato, per finire con la triste vendetta dell'ex fidanzato che trasforma la fiamma dei gemendati in una star porno del peer-to-peer, specialmente se minorenne all'epoca degli appressi. No, dicevamo, noi sentiamo già la mancanza della Polaroid, proprio perché essa ha introdotto, pur nella sua immediatezza, una piccola pausa di aspettativa fra lo scatto e lo sviluppo, la piccola magia dell'attesa. Estrarre la foto, sbatterla in aria e vedere comparire le immagini. Addirittura con le vecchie pellicole roll film occorreva anche separare il positivo dal negativo, strappandolo via. Una manualità che alcuni portavano anche dentro l'immagine, alterandola fisicamente durante i secondi di sviluppo. Quel momento di attesa comunque era unico nel suo genere, senza contare che a differenza delle fotocamere digitali, virtualmente illimitate quanto a scatti, il rollino obbligava in ogni caso a riflettere bene prima dello scatto, e rendeva irripetibile e irreversibile anche la più banale delle pose. Paradossalmente, occorrono più passaggi adesso per creare proprio un mosaico di fotografie alla testata del letto di quelli che non servivano alle polaroid. In questo senso, la fotografia, oltre che istantanea, era manuale, era un poco artigianale, a dispetto dell'automatismo che le polaroid imponevano all'utente. Siamo perciò convinti che di fronte al talento e alla genialità il mezzo conti assai poco, ma siamo altrettanto convinti che questa fisicità abbia caratterizzato la cultura dell'immagine e il vissuto di tanti nostri ascoltatori. Proprio per questo, concludendo, ci dispiace assistere al pensionamento di questi apparecchi senza neppure un affettuoso ricordo e una pausa di riflessione in più. Noi, questa sera, a Mimir, abbiamo provato a farlo. Speriamo di averlo fatto con meno lacrime e un sorriso. Regarde en arrière, t'apercevoir que tu as toujours laissé faire. Au moment de parler, ne plus pouvoir et à chaque fois s'effacer. Vivre sans avoir vécu, ne plus rien espérer de peur d'être déçu. Abbiamo trasmesso Mimir, puntata quando il 10 febbraio 2008 la musica è trasmessa in onda sono Paolo Pavano con Marsenghi dell'album Inside e del gruppo The Zero con Jean Pietro dell'album tratti dal sito www.giamento.com. Il testo della trasmissione sono i fumetti. Il presente podcast è rilasciato in licenza Creative Commons. http://www.giamento.com